La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, 16.36 per il 37, va in diretta agli studi Radio 24 di Milano, qua il venerdì 7 di novembre. Mi raccomando, appuntamento anche domani alle 10, dalle 10 alle 12, domani i conti della Belva con me, Carlo Alberto, Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Francesca Del Rosso. Parleremo anche di uomini e donne, anzi inizieremo di lì, inizieremo a parlare dello scandalo del fatto che in Italia, sapete che siamo il paese nell'OCSE con la più alta media quotidiana di lavoro non pagato delle donne, in tutti i paesi OCSE, solo l'Italia ha una cifra monster quotidiana di lavoro non retribuito alle donne italiane, non credo che sia un caso, no? Che poi partecipano molto meno che negli altri paesi europei al mercato del lavoro ufficiale, e vi chiederemo, però iniziate a pensarci se questo dipende dal welfare, dipende dallo Stato, quanto dipende anche dalla testa di noi maschi. Però di questo domani è Conte della Belva. Oggi parliamo di fisco, perché da due giorni io vengo bombardato di un mucchio di messaggi che mi danno, sorrido un po', ma insomma mi danno dell'evasore, anzi del difensore degli evasori. Perché che cosa è capitato? È capitato che in questi giorni, tra le sue molte esternazioni, il direttore dell'Agenzia delle Entrate che è succeduto a Befera, cioè la dottoressa Orlandi, che parla molto, comunica molto, sono uscite le anticipazioni del libro di Vespa, audizioni, dichiarazioni. In queste sue dichiarazioni il direttore di Agentrate ha detto a un certo punto, e ha ripetuto, che con i nuovi strumenti di tracciabilità eccetera, lei è convinta che si potranno abolire gli scontrini fiscali. A me è capitato di dire, cioè di farci sopra una risata, cioè dicendo vabbè, hai capito sta novità, perché da anni io in televisione vado a dire guardate che gli scontrini fiscali da anni non sono quello che vi ripetono, cioè lo strumento essenziale per la lotta all'evasione, perché da anni abbiamo potentemente accentuato la batteria dei poteri, come era giusto fino a un certo punto, secondo me, di Agentrate, quindi con gli studi di settore da una parte degenerati nel tempo e l'Agenzia delle Entrate che ancora non si mette in riga con le sentenze delle riunioni delle sezioni riunite della Cassazione, sentenze del 2009, e dopo 5 anni ancora l'Agenzia delle Entrate li utilizza come strumenti di accertamento analitico induttivo, mentre non potrebbe secondo la Corte di Cassazione. Poi con l'accesso online ai conti aziendali, che può fare l'Agenzia delle Entrate, glielo abbiamo consentito, la tracciabilità e così via, gli scontrini fiscali oramai sono una roba, un onere per chi li deve emettere, ma non costituiscono più la roba che continuano a spiegarvi, cioè lo strumento per lottare contro l'evasione dei negozianti, dei commercianti e così via. Le reazioni però sono state una marea di insulti al sottoscritto. Allora, per ragionare intorno all'annunciata abolizione degli scontrini, nonché all'ennesimo styling degli studi di settore annunciati anch'esso dalla dottoressa Orlandi di Agentrate, come al solito ricordiamo al nostro saggissimo professore, al nostro luminare in materia tributaria, che insegna diritto tributario a giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata, il professor Raffaello Lupi, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ha ragione o ha torto chi dice ma come, aboliamo gli scontrini e quindi abbassiamo l'asticella alla lotta all'evasione? Ma prima di tutto non bisognerebbe dire lotta all'evasione, ma mica si dice lotta alla spazzatura quando si tratta di smaltire rifiuti, mica si dice lotta al traffico, mica si dice lotta alla malattia, cioè è una delle tante funzioni pubbliche per determinare la ricchezza di piccoli commercianti al consumo finale. Questo Rossella Orlandi l'ha capito benissimo, cioè fra le righe si capisce che la ricchezza non registrata, ma non per criminalità, lotta, cattiveria, sta non negli operatori economici individuali o semi-individuali al consumo finale, perché dove ci sono organizzazioni amministrativamente complesse, lì a determinare le imposte ci pensa il ragioniere dell'azienda, non c'è poi magari il padrone ruba di suo, però complessivamente se teniamo conto che l'azienda è come una grande spugna che prende consumi e sputa redditi, sui consumi ci mette l'IVA e sui redditi fa le ritenute, è da lì che vengono i 450 miliardi di gettito tributario grosso modo. modo. Naturalmente, quando invece dell'azienda abbiamo la mia famosa metafora del pasticcere, è che dietro a tutta una filosofia, allora la cosa diventa più impegnativa, ma lo scontrino effettivamente, ha ragione Rossella, alla fine non serve a nulla, perché ma me l'hai fatto dire mentre sentivo le cose, ho pensato, ma dopo tutto, se vogliamo fare il piantonamento di cassa, cioè mettere un finanziere lì e vedere in un giorno il nostro caro pasticcere come quanto fa, scontrinando, non ci abbiamo nemmeno bisogno dello scontrino fiscale, cioè quanta gente entra, ricordiamo Cortina, i famosi blitz che ad Attilio Befera diceva, ma noi portiamo fortuna, la gente quando arriviamo noi guadagna molto di più, no. Come no? Che quindi si vede lo stesso alla fine, se, perché a quello serviva, io vedo quanto guadagni in un giorno, poi dico, ma è possibile che poi guarda caso i giorni vengo io, ma guarda quanto porto fortuna. Quindi era uno fra i tanti indizi di una determinazione contabile che non si può fare sui pasticceri e quindi deve essere valutativa per ordine di grandezza, e qui non sono d'accordo con l'altra cosa che dice la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, cioè che lo scambio della tracciabilità e i computer possano sostituire la tradizione valutativa della determinazione dei tributi dove non arrivano le aziende. Cioè, noi ci siamo presi quello che ho detto prima per le aziende, che va benissimo, finché funziona è bellissimo, e quando non funziona bisogna valutare. Cioè, quanto guadagna un carrozziere? Noi non lo prenderemo mai se non andiamo in carrozzeria. Perché qui l'illusione, travestita da grande entusiasmo di agende digitali su cui poi lo Stato resta indietro. Ah, parentesi informativa per chi ci ascolta, guardate che negli oltre 10.000, mi scappa da ridere, 10.000 enti pubblici italiani che non sono in regola con la legge perché non dichiarano ancora oggi le banche date da loro gestite, dovrebbero farlo tutti i soggetti pubblici, ci sono anche tutte le società di Equitalia, ecco, a proposito di agenda digitale, non dichiarano le banche gestite, quelle di Equitalia. Però detto questo, secondo me l'entusiasmo, perché col computer noi leggiamo tutto, la tracciabilità di tutto, io sono d'accordo con il professor Lupi, è un po' eccessivo, perché che, a parte evocare fantasmi del Grande Fratello, ma nella realtà non è che è possibile praticarlo per centinaia di migliaia di esercizi, o mi sbaglio? Per milioni, esatto. Per milioni di conti bancari, cioè su un sito carino che si chiama Noise from America, c'erano delle risultanze dell'evasione fiscale in Danimarca, dove insomma, nonostante credo il contante sia sparito, si evade lo stesso, semplicemente, cioè non è che c'è la banca, non è la contabilità del pasticcere, no. La banca è un posto dove sono accumulati dei dati che poi qualcuno deve andare a vedere, cioè non è il sostituto del ragioniere, perché chiaramente la pubblica opinione se ne accorge, cioè lo percepisce, quello che dicevo io prima, le aziende sono l'esattore del fisco, ma quando c'è? Ma non lo vuoi creare dove non c'è? Dove non c'è bisogna che ci vada l'omino dell'Agenzia delle Entrate, e quello non può rifare la contabilità a un lavoratore indipendente, a un carrozziere, un elettricista, un pasticcere, deve andare a occhio. Noi abbiamo tutti paura se qualcuno va a occhio, allora sì, ruba, mamma mia, no, perché quest'estate è successo quello scandalo a Roma, il metodo non mi ricordo come si chiamava il funzionario che hanno arrestato perché chiedeva e faceva i ricarichi con la pasta ai ristoranti. Tutti hanno paura, che sono, è quella cosa con cui bisogna fare i conti, cioè vai, stima, non rubare, se rubi ti cacciamo, ma non ci possiamo tutti paralizzare dalla valutazione perché abbiamo paura di prenderci una responsabilità che qualcuno rubi. Allora, su questo io le faccio una domanda, la risposta me la da 60 secondi dopo l'informazione stradale. La domanda è questa: noi siamo passati dal vecchio tradizionale sistema, che era quello delle verifiche, no? C'è un famosissimo film di Totò in cui c'è Fabrizio che fa l'ispettore, che fa la verifica al negoziante Totò, e si muore dalle risate, e che però contemporaneamente fa vedere come funzionava la verifica tradizionale. Siamo passati poi nel tempo, ohimè, sono passati decenni dal 93 con gli studi di settore ad avere la presunzione di una pianificazione fiscale, ma che tenesse conto di molte tipologie, no? Di operatori. Li abbiamo secondo me un po' troppo forzati. La magistratura poi, ricordiamo, la Cassazione ha detto no, guardate, non potete utilizzarli come parola di verità per dire chi non è in riga, qui sbaglia un codice, perché ancora oggi è così, diventa evasore fiscale nello studio di settore. Però il professor Lupi dice le verifiche dovranno sempre esserci. La domanda diventa a questo punto, e la risposta tra 60 secondi, come si può conciliare la necessità, che resta ovviamente, di verifiche fatte per tipologia? Sono verifiche per azienda, sono verifiche di tipo generalista? A quel punto, se si fanno le generalizzazioni, abbiamo visto cosa succede con gli studi di settore. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta. Stiamo parlando abolizione dello scontrino fiscale annunciato dalla Orlandi di Agentrate, e polemiche che restano su questo nuovo restyling, di nuovo annunciato da Agentrate, degli studi di settore. Come si fanno le verifiche allora, secondo lei, professor Lupi? No, non si fanno le verifiche, si devono fare le stime, cioè si prende la dichiarazione, si va a vedere la pasticceria e ci si prende la responsabilità di dire a occhio, con lo spannometro, per ordine di grandezza, questo grosso modo ci sta, quest'altro siamo fuori dalla realtà, quest'altro tira un po' su perché stai bassino. Si va con l'intelligenza naturale, come si fa, cioè è possibile che le istituzioni di un paese moderno si perdono davanti alla stima di quanto guadagnano gli operatori economici al consumo finale? Non si può fare coi conti, questo era sbagliato nel film di Totò e Fabrizi, sì. Tartassati, cioè non è che si fa, però quella era un negozio con qualche, era già un'aziendina, sì, che aveva avuto 5-6 sì, commesse, ma se no vai a occhio, cioè abbiamo 2 milioni di operatori economici senza dipendenti, passi per strada con la dichiarazione dei redditi senza fare accertamenti, buonasera, sono del fisco, volevo controllare gli studi di settore, non è che glieli chiedi alla virgola, è più facile far pagare le tasse purtroppo ai pasticceri, che tutto sommato i redditi di categoria non sono inverosimili, cioè se andiamo a vedere sono molto più verosimili i redditi di categoria rispetto alla presenza sul territorio di queste valutazioni che dicevo io prima, che non ci sono. L'ufficio imposte di Cortina stava a Belluno, quello di Civitavecchia sta a Roma, cioè a 100 km di distanza, cioè abbiamo dei paradisi fiscali altro che le isole dei Caimani, c'è l'isola d'Elba, quindi ci sono posti dove c'è, ma perché, siccome si è data questa spiegazione criminalistica, noi se non la rassereniamo, possiamo andare amichevolmente dal carrozziere e dirgli oh, ma come sei messo col fisco? Perché già lui poi ha paura che gli vuoi chiedere la stecca appena si è creato un clima da incubo. Infatti a chi si fanno le verifiche? Alle grandi aziende su quello che hanno dichiarato. Esatto. Cioè i controlli fiscali si sprecano nel senso che li butti proprio, certo. Il tempo perso, perché a quel punto mette risorse umane, tecnologiche, eccetera, in una roba sul nulla, comincia a filosofeggiare, questa sì, non è una vera fusione, una cessione di azienda, perché la risoluzione, bravo, perché come sa, però ottenere grandi incassi dalle grandi imprese si fa tutto in filo di elusione e abuso di diritto. Tutto illusione, abuso del diritto, esatto. Quei visto, però siccome la cultura popolare c'ha l'idea del grande evasore, certo. Allora il grande evasore, la grande azienda, anche quella stupidaggine, cioè la cosa del Lussemburgo che è uscita, bravo, capito? Cioè quelle sono tutte cose, no, per carità, deprecabili, ma alla luce del sole li vedi dai bilanci, li esatto, uno per sono uno dichiarate. Ma sono professore, io la voglio ministro, presidente della Repubblica, non lo so, a me sembra di buon senso quello che dice, però guardi, lei lo sa, io non so come con i suoi studenti, probabilmente l'ammireranno e lei li avrà conquistati anche con il cuore per come parla. Io a dire queste cose mi becco gli insulti, perché la gente, non è che abbiamo criminalizzato il fisco, è tutto secondo me intossicato in questo argomento. Sbaglierò io, perché anche sulla cosa del Lussemburgo che ha appena citato, se vede che cosa gira sui social, sembra che Juncker è stato alla testa praticamente della mafia con 500 100 multinazionali, tutto dichiarato nei loro bilanci, che invece erano la cupola di Al Capone. A me sembra un po' ridicolo. Che quella che è più criminale fondare una banca che rapinarla, cioè quella cultura è ancora in mezzo a noi, striscia. Sentiamo un po' di ascoltatori su questa meraviglia che ha appena detto. Manfredo da Firenze, Manfredo. Ciao, buongiorno Oscar. Buongiorno. Dunque, una piccolissima premessa: ho 53 anni, sono sotto in banca di 10.000 euro, la banca mi ha tolto il fido e gestisco una piccolissima attività di 5 metri quadrati di panini al lampredotto, quindi panini caldi che devo fare estemporanei. Sì. L'altro giorno mi è arrivata la finanza, ho scoperto dopo che uno era nascosto dietro il banco, hanno aspettato che qualcuno andasse via senza scontrino e mi hanno fatto una multa di 500 euro. Per carità, giustissima, perché non ho fatto lo scontrino, per modo di dire. Allora, a me quello mi fa arrabbiare, cos'è? Io ho un banco talmente piccolo che anche se per rubare, prima di riuscire a rubare una cifra abbastanza elevata dovrei campare un numero X di anni infinito. Quello che io mi domando è questo: ma perché la finanza non viene da me? Mi controlla il potere in joule del mio bruciatore per cuocere il lampredotto e non posso darlo crudo perché è cattivo. E si fa un conto. Mi mette due webcam, mi dice: guarda, se tu prima delle 10:30 fai un panino ti faccio chiudere. Guarda Manfredo, hai fatto capire chiaramente. Che direbbe Raffaello Lupi? Accetterebbe la proposta di Manfredo o è meglio stangarlo? No, è ottimo, ottima la proposta di Manfredo, ma infatti è ottimo togliere di mezzo sto benedetto scontrino che poi colpisce il carrozziere o anche il pasticcere che vende la torta da 30 euro a quello conosciuto. Il rischio non lo corre, perché nella misura in cui conosci il cliente dello scontrino te ne strafreghi, cioè è esposto quello del panino che vende tanti panini a 2 euro, ma se io faccio il carburatorista non c'è più il carburatore. Manfredo, abbiamo capito insieme chi è il nostro ministro ideale. A me non importa in qualunque formazione si presentasse mai, ovviamente il professor Lupi poi magari non si presenterà mai, per me questo è il candidato ideale per fare il ministro delle finanze. Maurizio da Milano, come la pensa Maurizio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire solo questo, che lo studio di settore secondo me è calcolato al ribasso, perché io sono un imprenditore e il commercialista ho visto tante volte e mi dice: sei congruo? Sono sempre io, fatturo tutto e quindi proprio tutto, e quindi chissà com'è, sono sempre congruo. Poi vedo il panettiere che invece lo studio di settore gli dice che è congruo con 15.000 euro di reddito. Ora mi dovete dire com'è possibile che un mio dipendente che guadagna 1.000 euro al mese fa fatica, secondo tutte, e guadagna poco, è un morto di fame, giustamente. Poi però un commerciante che è congruo con 15.000 euro di reddito invece va bene, perché ci sono commercianti che dichiarano redditi da 10.000 euro, 12.000 euro. E lei però, posso in questo caso le rispondo io perché abbiamo pochi secondi, lei mischia, per così dire, una comparazione di reddito dignitoso con quello che al fisco basta sapere per essere congruo. Come sa, sono due cose completamente diverse. Comunque, torneremo su questi argomenti, un mucchio di telefonate, abbiamo poco tempo, intanto ringraziamo Raffaello Lupi, controllo su Radio 24, appuntamento con me ai Conti della Belva, domani alle 10.